Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note della colonna sonora del film Pina di Wim Wenders, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica, Stefano Mauri. Buongiorno. Stefano Mauri, cavaliere Stefano Mauri, è presidente del gruppo editoriale Mauri Spagnolo, e cominciamo a parlare di questo film, di questa musica. Perché la scelta? Perché le piace? In questo periodo mi piace questa musica che ho scoperto recentemente. Mi piace così, perché mi sembra che somiglia alla vita in questo periodo. Ecco, una musica che piace, una musica vivace, una musica appunto in un momento di difficoltà, un momento di difficoltà, non vogliamo cominciare dalle difficoltà, però un po' per tutti, anche per gli editori. Sì, certo, non è uno dei momenti migliori, anche perché gli editori italiani si rivolgono al mercato interno, che è in ginocchio, insomma, dopo le varie crisi finanziarie, economiche, si traducono poi in una crisi dei consumi, aggravata da una tassazione straordinaria che non lascia purtroppo molti margini, soprattutto per le cose che non sono strettamente necessarie, anche se la cultura è qualcosa che è necessario per vivere. Sì, ma guardi, si parla nei giornali tanto di crisi del libro perché di libri si parla, ma i libri sono messi molto meglio di tanti altri settori. Tutto il consumo interno, anche gli alimentari, sono in flessione, e nell'ambito dei prodotti culturali i libri sono quelli tutto sommato che tengono meglio. Ecco, quindi il gruppo Mauri Spagnolo è il terzo gruppo editoriale italiano, i primi due sono Rizzoli e Mondadori, e comprende numerose case editrici: Longanesi, Garzanti, Vallardi, Guanda, Corbaccio, Tea, Bollati Boringhieri. Ne ho dimenticato sicuramente qualcuno. Sì, ne ho dimenticata qualcuno, ma pazienza. Magari aggiungiamo. Abbiamo una serie di case editrici, per esempio, per i bambini piccoli come la Coccinella, Apen e Nord Sud, perché insomma, contrariamente a quello che si pensa, i bambini si affezionano prima ai libri che si possono toccare che ai tablet e agli iPad. E quelli vanno sempre? Quelli vanno sempre, risentono anche loro delle congiunture economiche in tutto il mondo, quindi non risentono molto del digitale, ecco, perché sono un oggetto, innanzitutto un oggetto, in secondo luogo un contenuto. Ecco, com'è nata questa costellazione di editori riuniti poi in questa appunto casa editrice Mauri Spagnolo? Ma nel 1979 mio padre, con le Messaggerie Italiane, il principale distributore italiano, ha comprato la casa editrice Longanesi, che era in pessime acque, e l'ha affidata a Mario Spagnolo, che allora usciva dalla Rizzoli, dirigeva la Rizzoli ai tempi da Sandino, non aveva una grande intesa con quella proprietà e si è dedicato a questo punto, anche da imprenditore, perché è diventato socio anche lui, al rilancio della Longanesi. Poi nel tempo è stata acquistata una Guanda, anche quella di grande prestigio passato, ma senza più vendite in libreria, la Salani lo stesso, è stata fondata la Tea, poi è stata acquistata a Corbaccio e Ponte della Grazia. Cioè, in genere sono state raccolte delle tradizioni editoriali che non avevano più una gestione capace di affermarle in libreria e sono state tutte rilanciate. Ecco, ma non sono solo dei marchi di una stessa casa editrice, perché ognuna, almeno nella vostra ambizione, vuole avere una precisa autonomia editoriale. Sì, sono proprio delle, per lo più la maggior parte sono rimaste delle società autonome. Crediamo che il mestiere dell'editore sia nell'aggiungere qualcosa, sia un mestiere artigianale, non è il mestiere di chi prende quello che arriva dall'autore, lo stampa e lo rende noto al pubblico in qualche modo. L'editore ci mette del suo anche per far fare l'ultimo miglio al manoscritto, per migliorarlo, per presentarlo nel modo consono a quello che è il momento di mercato e diciamo che il 95% del nostro fatturato è fatto da autori che sono stati scoperti dalle nostre case editrici e accompagnati al successo. Ecco, case editrici che coprono un po' tutto lo spettro, non solo diciamo lo spettro ideologico, destra o sinistra, ma anche diciamo lo spettro letterario, cioè la narrativa, la saggistica, l'approfondimento, i libri, anche i libri scolastici. No, i libri scolastici no, noi siamo concentrati nella varia e per lo più non illustrata, cioè quella che fa le classifiche, la narrativa e la non fiction, la saggistica principalmente, e i nostri best seller sono tutti diciamo libri nati in casa, dei quali abbiamo gioiosamente scoperto le qualità e che abbiamo accompagnato ai risultati che poi hanno avuto. Ecco, negli ultimi anni quali sono state le soddisfazioni maggiori, titoli che hanno magari dato più soddisfazioni senza che fosse prevista questa soddisfazione, cioè su cui, che è stata una crescita un po' improvvisa e che vi ha appunto dato dei vantaggi competitivi? Beh, parlare di diciamo tutti i bestseller sopra le 100.000 copie, se sono gli autori al primo esordio, per qualunque editore sono delle sorprese impreviste in un certo senso, e dal nostro punto di vista sono previste, nel senso che un bravo editore sbaglia 4 volte su 10, un cattivo editore sbaglia 8 volte su 10. Sbagliare nel senso di avere diciamo un gusto diverso dal mercato fa parte del mestiere dell'editore. Le grosse esplosioni degli ultimi anni, a parte vabbè, che abbiamo pubblicato Harry Potter con tutto quello che a tutt'oggi è il libro che ha avuto, il settimo libro di Harry Potter ha venduto 125.000 copie il primo giorno. Faccia conto che i best seller degli ultimi anni, i più grossi best seller che potete immaginare degli ultimi anni, hanno venduto circa 100.000 copie il primo mese. Quello è stato per noi l'esperienza principale, ma poi anche per esempio l'enorme successo dei libri di Benedetta Parodi che abbiamo lanciato noi. E un caso un po' diverso è quello dell'ultimo libro di Massimo Gramellini, Fai bei sogni, e non era un esordio, il romanzo precedente aveva già venduto 200.000 copie. Noi però, io non ricordo mai che avessimo avuto tanta ansia di vedere un libro arrivare in libreria, perché quando Fai bei sogni era ultimato e l'abbiamo letto tutti all'interno della casa editrice, sentivamo che era un libro speciale, e infatti è il libro che ha venduto di più, è il romanzo più venduto di quest'anno e degli ultimi 12 mesi. Sì, una storia vera, una storia appunto che riguarda da vicino e quindi tocca molto le persone. Forse in questa fase c'è bisogno di storie di questo tipo, un po' più vere e un po' meno romanzate. Ma credo che questo ripiegamento dentro se stessi, dentro il proprio io, che è lo stesso che in qualche modo aveva contraddistinto, anche se con sfumature diverse, l'ultima fase della vita di Tiziano Terzani, che da cronista certo di guerra, cioè della maggiore, più mondano di così, diciamo, non si può, ha iniziato a diventare cronista della propria mente, dei propri sentimenti e viaggiare dentro se stesso. Ecco, anche Gramellini, in modo diverso naturalmente, riflette forse questa esigenza di, io credo anche di autenticità, perché ultimamente molti romanzi di successo effettivamente sono molto autobiografici, perché forse è anche il modo per l'autore di essere più autentico, e l'autenticità forse è una specie di anticorpo rispetto all'inautenticità totale che certo viviamo ogni giorno. L'autenticità è un valore, indubbiamente. Prendiamo la telenovela della politica, per esempio, non si riesce a immaginare niente di più inautentico, no? Ogni giorno sembra che cambi tutto e non cambia sì, nulla. Sì, sì, è uno scenario in cui va in onda una recitazione, un copione che non si sa bene da dove arrivi e dove vada, ecco. Quindi c'è questa esigenza di autenticità, ma c'è anche un'esigenza appunto di guardare le cose in modo nuovo. Peraltro il motivo del Salone di Torino, il motivo conduttore del Salone di Torino, che si apre tra pochi giorni, alla fine della settimana prossima, il 16 maggio, sarà proprio la creatività. Il Salone di Torino è la più grande, immagino, esposizione, festival, luogo di incontro del libro in Italia. Ecco, quest'anno che speranze riponete nel Salone di Torino, voi editori? Ma il Salone di Torino è sempre un incontro piacevole, un termometro in cui il più delle volte si constata che I lettori sono ancora tutti lì, l'interesse e la curiosità, al dispetto appunto di questo continuo parlare di crisi, c'è. Io credo poi che bisogna parlare di crisi del libro in modo molto diverso. Noi credo che viviamo in un'epoca in cui la gente non ha mai letto così tanto. Se oltre al libro pensiamo a internet, ai social, a tutto quello che la gente deve leggere e scrivere per essere connessa oggi. E anche l'ultimo anno è stato l'anno in cui i lettori hanno speso più che mai per la lettura, solo che una parte di questa spesa è andata a comprare i tablet, i reader, gli strumenti. Gli strumenti per leggere. Quindi io credo, se certamente l'editoria è in crisi, come tutti i settori, come molti altri settori italiani, eccetera, eccetera, però io credo che quello che è importante è che ci sia ancora tanta curiosità, tanta voglia di leggere, tanta voglia di aggiornarsi. Ecco, l'editoria è in crisi complessivamente, i quotidiani, proprio questa concorrenza di internet, non è solo la concorrenza di strumenti, ma anche una concorrenza di tempo. Internet porta via del tempo, magari non per informarsi, per fare altre cose, per leggere, ma magari per leggere nei social network e non per leggere libri, racconti, romanzi o saggi. Quindi ecco, questa concorrenza si fa sentire anche del libro, ma il libro ha un suo fascino forse particolare. Come vede il futuro del libro? Ma intanto su internet ci vanno anche gli autori. Io per esempio vorrei osservare che fino a qualche anno fa i grandi romanzi eri di genere erano praticamente solo americani, in qualche caso inglesi. E secondo me questo dipendeva oltre dal fatto che avevano forse digerito prima la lezione dello storytelling di Hollywood, eccetera, eccetera, ma soprattutto se un autore americano voleva rappresentare la scena di un crimine, per esempio, e doveva descrivere un fucile, andava in biblioteca e consultava la rivista dei fucili, sicuramente c'erano tre o quattro negli Stati Uniti. Ecco, un autore italiano cosa poteva fare? Niente, perché ammesso che ci fosse la biblioteca, non trovava quella rivista, eccetera. Ecco, diciamo che internet rende gli autori molto più uguali. Non è un caso, secondo me, se molta ottima narrativa di genere non è più un appannaggio degli americani o degli inglesi. Lo stesso Donato Carrisi, nostro autore, che sarà a Torino con il suo nuovo libro, che sta andando molto bene, beh, è molto venduto anche all'estero, direi che l'autore di Torino è più venduto all'estero perché non c'è più questo problema della distanza culturale. Cioè anche gli autori approfittano di questi mezzi. Io leggo romanzi, francamente, sempre più belli, sempre più informati e sempre meglio fatti. Quindi mi piace. Ecco, ma non c'è il rischio, per essere provocatori fino in fondo, che internet possa far superare la figura dell'editore, che ci possa essere lo scrittore fai da te? In fondo è così semplice scrivere, mettere su internet, far circolare, che la figura dell'editore rischia di essere un po' in secondo piano. Ma il vero segreto degli editori è sempre stato che chi non fa editore non capisce assolutamente cosa faccia l'editore. Noi sappiamo che ci sono mille decisioni che riguardano ogni singolo libro e che consentono di evitare mille errori, e riguardano tutti l'aspetto intangibile del libro, quindi non si vede dove sta questa arte. Metà dei libri miei che sono in classifica non sarebbero in classifica senza che ci fosse stato l'intervento dell'editore, per esempio, ma non dirò mai qual era quella metà, certo. E non dirò mai che cosa è stato fatto, perché d'altra parte, per esempio, nella tradizione inglese e anglosassone vedete spesso i ringraziamenti agli editor nelle ultime pagine del libro, ma sono ringraziamenti sinceri, perché effettivamente l'editore fa la differenza. Ecco, un editore, appunto, che è un editor, è qualcosa che non si limita a stampare e mandare in circolazione, ma c'è tutto un lavoro di preparazione anche del libro, e c'è un lavoro complessivo anche di presentazione sul mercato che forse il fai da te non riesce a fare. Sì, a parte, diciamo, la parte redazionale, l'attenzione, direi che non ci vogliono meno di 6 mesi per meditare e preparare il terreno per l'uscita di un bestseller. Fare un libro, quindi, è qualcosa di molto più complesso che non scriverlo. Incontri. Ancora con le note della colonna sonora del film Pina di Wim Wenders, è un film che racconta la storia di una ballerina e coreografa tedesca. Riprendiamo il nostro incontro con Stefano Mauri, presidente del gruppo editoriale Mauri Spagnol. Abbiamo parlato nella prima parte del mestiere dell'editore, abbiamo parlato del gruppo Mauri Spagnol, che comprende numerose case editrici: Longanesi, Garzanti, Vallardi, Guanda, Corbaccio, Tea, Nord, Bollati, Boringhieri e La Coccinella, che è un editore specializzato appunto nei libri per bambini. Forse in quest'ambito c'è poca concorrenza, ma negli altri ambiti la concorrenza è forte. Nei libri per ragazzi la concorrenza è ancora più spietata, perché laddove sull'autore prevale, diciamo, la manifattura, che è un'attività aperta a tutti, c'è molta più sostituibilità fra un prodotto e l'altro, mentre per quel che riguarda la narrativa per adulti la concorrenza è più a monte, su chi si aggiudica l'autore buono, perché se un lettore vuol leggere quell'autore può mica scappare. Ecco, tra le vostre 10 case editrici è mai capitato che qualcuno che tutte e due concorressero per lo stesso autore, magari tirassero, accettassero dei prezzi più alti, facessero delle aste al contrario? Guardi, è capitato, capita 2-3 volte l'anno che più di una casa editrice voglia acquistare lo stesso libro. C'è in corso adesso un'asta dove due delle nostre case editrici stanno competendo insieme a altri editori esterni. Il caso più straordinario riguarda un libro che è uscito proprio 10 giorni fa. A me non era mai capitato. 4 delle nostre case editrici, appena il manoscritto di questo autore australiano è circolato nel mondo, 4 case editrici hanno tempestivamente richiesto di poterlo acquistare. Solo del nostro gruppo, poi altre 4 certo, fuori dal nostro gruppo. E in quel caso lì ho consentito a tutte le case editrici di partecipare, perché ogni editore, e qua torniamo all'argomento di cos'è l'editore, ogni editore in qualche modo interpretava lo stesso, questo libro si prestava a piani di lettura più alti o più, diciamo, gaudenti. Ecco, ogni editore interpretava in un modo un po' diverso questo libro, e a seconda di come interpretava questo libro e di quelli che erano stati i recenti successi di quell'editore, ogni editore poteva pensare di vendere un certo quantitativo di copie. Naturalmente ha vinto dei nostri questa asta l'editore che aveva... Ma possiamo anche fare il nome? Longanesi, il libro si chiama L'amore è un difetto meraviglioso, ve lo consiglio perché negli ultimi 12 mesi credo sia il libro più divertente che io abbia letto, è uscito da 10 giorni. Da 10 giorni e presumibilmente questo weekend lo troverete nelle classifiche. È un libro di un australiano straordinario perché il protagonista è uno scienziato che concede, diciamo, poco spazio ai sentimenti, ma decide di prendere moglie perché ha letto che gli uomini sposati vivono più a lungo per una questione meramente statistica, dice, e quindi cerca di affrontare da scienziato questa missione, questo progetto di prendere moglie, e da lì si scatena tutta una storia molto divertente. Non anticipiamo troppo le conclusioni. Ecco, tra le vostre case editrici, ma non del tutto vostre, se per esempio Chiare Lettere, di cui avete il 49%, sì, che è una casa editrice molto profilata dal punto di vista politico, come mai questa scelta di avere il 49%, quindi di avere una quota importante ma non decisiva, non determinante? Beh, diciamo, Chiare Lettere è stato una delle nostre grandi imprese, fondare una casa editrice indipendente dedicata a quello che si chiama in inglese actual affair, cioè alla saggistica di inchiesta giornalistica esclusivamente dedicato a questo, in un paese dove il 50% del mercato è fatto da narrativa, era un'impresa non del tutto scontata. Dobbiamo il suo successo principalmente alla bravura di Lorenzo Fazio, che veniva dall'Einaudi e poi dalla Burr, che ha un talento che a me stupisce. Io credo che lui abbia fatto un patto col diavolo, perché quando succede qualcosa di eclatante che assorbe attenzione dei media, sta uscendo, è appena uscito un libro di Chiare Lettere, solo che quel libro è stato concepito 6 mesi prima. Insomma, io dovrei farmi dare da Lorenzo Fazio i numeri dell'otto, credo. Per esempio il libro sul Vaticano è tempestivo, nel momento in cui... Quello lì è addirittura il contrario, diciamo che è con causa degli eventi avvenuti dopo, comprese le dimissioni di Ratzinger, nel senso che ha rivelato allo stesso Papa, diciamo, che forse nei suoi dintorni le cose non erano proprio così pacifiche come poteva pensare. Ecco, allora, torniamo a guardare al Salone di Torino, al libro, il libro tradizionale come lo vediamo, diceva che il libro comunque avrà un futuro, si può continuare a puntare sul libro. La quota degli ebook, la quota dei libri elettronici in Italia è ancora molto bassa. Beh sì, in Italia è bassa come in tutta l'Europa continentale, dove c'è più pluralismo nel retail, nella vendita, e dove non c'è una quantità enorme di titoli in inglese come c'è in lingua inglese, semplicemente grazie al fatto che in America sono partiti 5 anni fa. L'esplosione dell'ebook in Inghilterra, che è molto maggiore dell'Europa continentale, si deve al fatto che gli inglesi godono di un catalogo enorme di titoli che è stato preparato da editori americani. E vorrei sottolineare, perché la gente questo spesso non lo capisce, che gli ebook vanno benissimo agli editori. Gli ebook li fanno gli editori, non è che li fanno le piattaforme, sono gli editori che producono gli ebook, le piattaforme li vendono. Sì, costano un po' meno, non c'è la carta, quindi vanno direttamente dalla produzione al consumo. Sì, costano un po' meno, ma diciamo che l'IVA è a 17 punti in più sull'ebook rispetto al libro, perché in Europa non si è ancora messi d'accordo di equiparare l'IVA del libro di carta all'IVA dell'ebook, e le piattaforme si prendono una bella fetta in cambio quasi di nulla, perché il click lo fa il lettore e la piattaforma si prende il 30%. Ecco, ma come si intersecano questi due canali? Tutti i libri possono essere acquistati anche in ebook? Ci sono libri solo in ebook da parte appunto di un grande editore, oppure ci sono libri solo cartacei? E come mai, per esempio, uno che acquista un libro cartaceo non può avere allo stesso prezzo, al prezzo del libro, anche la versione in ebook? Allora, dal 2010 tutti i principali editori di ogni libro offrono sia la versione cartacea che la versione ebook, quando possono. Gli editori, che si prendono sempre tutte le colpe, in realtà devono sottostare alle richieste degli agenti letterari che rappresentano gli autori. Gli editori italiani hanno potuto sviluppare il proprio programma ebook quando gli agenti letterari americani finalmente si sono decisi a rilasciare questi diritti per l'Italia, e quando le piattaforme si sono decise a offrire agli editori italiani contratti simili a quelli che offrivano gli editori americani e non contratti, come si dice, vessatori. Ecco, quindi non sono gli editori italiani colpevoli. Tante volte noi dobbiamo aspettare quello che succede all'estero. Lo stesso è per questa cosa. A me, io trovo che sia sbagliatissimo il dibattito. Capisco che nasca dalla legge attuale, per cui il dibattito non può che essere quello. Però è sbagliatissimo il dibattito sui diritti d'autore sull'ebook, perché secondo me l'ebook è una cosa diversa, che ha delle proprietà diverse, dei vantaggi e dei svantaggi rispetto al libro di carta, e dovrebbe avere un regime di diritti completamente diverso. Mi spiego, siccome l'ebook è una vendita elettronica, si può sapere qualsiasi cosa di quando, dove, come, da chi è stato acquistato, cosa che non si può fare nel libro di carta. Io trovo sbagliato pensare che l'ebook si possa prestare come libro di carta, e troverei giusto che tutti pagassero per una lettura di un ebook, ma tutti pagassero meno. Ecco, questa sarebbe la versione, perché gli autori, vi assicuro che il 90% dei libri acquistati da gente sono scritti da autori che li scrivono perché hanno le royalties. Se non hanno, certo, le royalties, devono andare a lavorare in banca, a zappare la terra o fare quello. Tutti devono vivere, anche gli autori. Ecco. Quindi, ecco, questo gratuito, infatti c'è questa logica un po' del gratuito su internet, che è stata un po' coltivata anche dagli editori, mettendo su internet molte informazioni che poi si sono rivelate quasi un cannibalismo verso la propria produzione editoriale degli stessi quotidiani. Sì. Ecco, quindi va anche questo regolamentato. Le leggi su questo fronte sono un po' in ritardo. Beh, bisogna mettere d'accordo un sacco di persone, e a me piace moltissimo l'idea, ne ho parlato anche con colleghi americani, dopo spiego perché, che secondo me è giustissima, sarebbe meravigliosa. Cioè, io, se io compro l'ebook, spendo meno che se compro il libro, certo, di carta, perché insomma il processo costa meno e in qualche modo è anche un po' meno di un libro di carta. Un ebook ha delle proprietà in più. Ecco, ma se compro un libro di carta, io vorrei potermi scaricare l'ebook. Compro un libro di carta, me lo leggo quando sono a casa, poi vado in viaggio e continuo a leggermelo sul cellulare, e vorrei non spendere una cifra in più. Ecco, questo non sarà possibile. Sono stati fatti degli esperimenti su singole collane, eccetera, ma questa pratica sarebbe dirompente se fosse diffusa. Una pratica di questo genere può essere diffusa se si mettono d'accordo gli agenti editori americani, perché noi dipendiamo da quello che succede là su queste nuove forme di... Se loro si mettessero d'accordo che non bisogna ripagare i diritti per l'ebook scaricato in conseguenza, allora tutto sarebbe molto facile. È ancora il mercato di riferimento, sì, anche sotto questo profilo. Sul profilo dei diritti, senz'altro. E invece sul profilo italiano, che quale sarebbe la misura necessaria per dare un po' di ossigeno al mercato editoriale e quindi al mercato della cultura? Ma guardi, ci sono tante possibilità. Negli altri paesi latini, come la Francia e la Spagna, si spendono decine di milioni per la promozione della lettura, per educare i giovani soprattutto alla lettura. In Italia se si spendono 2 milioni è tanto. Nei paesi scandinavi dal 15 al 40% delle vendite di editori avvengono perché quei libri vengono comprati dalle biblioteche statali. Cioè, in questi paesi c'è rispetto per il libro. Il libro è ritenuto ancora giustamente il principale veicolo culturale. Quindi in Italia ci vuole un po' più di rispetto per il libro, un po' più di attenzione e magari qualche facilitazione fiscale? Sì, quanto alle facilitazioni fiscali, penso che sarebbe solo giusto se una piattaforma che vende gli ebook in Italia pagasse la stessa IVA che paga una piattaforma che vende gli ebook da Lussemburgo. E invece c'è una disparità enorme. Anche l'Europa dovrebbe fare dei passi avanti su questo punto. L'Europa dovrebbe fare dei passi avanti, sono intenzionati, ma vede, l'Europa per cambiare questa norma devono essere d'accordo in un momento di crisi come questa 27 ministri delle finanze. E l'Europa è un paese dove ancora non sono messi d'accordo di non andare una settimana al mese, di non spostare il Parlamento una settimana al mese, perché tanti anni fa avevano fatto questo pari. Ecco, se l'Europa dovesse mettersi d'accordo, in Italia abbiamo anche qualche problema anche qui di mettere d'accordo le diverse parti, ma speriamo appunto che magari la lettura di un buon libro possa riconciliarci anche con il futuro. Io ringrazio il Cavaliere del Lavoro Stefano Mauri, presidente del gruppo editoriale Mauri Spagnol, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, tutte le sue puntate, così come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.